dici a una mia coetanea? Non mi fate sto torto. Poi naturalmente dovrò controllarmi nelle mie ambizioni, evidentemente non posso andare sotto una certa età, ma insomma, voglio dire, quando vedo delle mie coetanee alla televisione, le vedo, no? All'obbligo, quindi questi uomini sono snelli e rigorosi, e le donne hanno una franchezza. Questo è molto bello, perché vedete, l'idea geniale di Baudelaire è che le donne siano segrete, che mentano agli uomini, che siano false. Questa è l'idea che hanno tutti gli uomini che non conoscono le donne. Tutti gli uomini che non conoscono le donne, e Baudelaire aveva pratica di donne quanto io di locomotori giapponesi dell'ultima generazione. Baudelaire conosceva le donne come io conosco il sistema di raffreddamento dei locomotori giapponesi dell'ultima generazione. Ecco. E quindi tutti gli uomini che non conoscono le donne pensano che le donne siano maliarde, che siano piene di bugie, di misteri, non sanno che sono tutte le donne povere creste. Questo è il punto sostanziale. La povera cristaggine delle ragazze la sa soltanto chi ne ha lunga pratica, direi professionale. Sono povere criste esattamente come i maschi. Direi gareggiano, più sono giovani, in povero cristonismo. Diciamo così. E quindi qui si immagina che la donna sia sincera. In questo luogo di felicità la donna deve essere franca, sincera. Allora, guidato dall'odore, guardate che lui ripete a distanza di pochi versi il sostantivo odeur. Ora, non è che fosse in Curia, un poeta minore avrebbe usato un altro sostantivo. Perché lui ha usato lo stesso sostantivo? Perché a scuola, nelle elementari o nelle medie, posto che vi abbiano insegnato qualcosa, ammesso niente affatto concesso, vi avranno detto che le ripetizioni sono sbagliate. Ora, che in un sonetto uno ripete la stessa parola da un verso all'altro può sembrare mediocre. E no. Quando tu lo ripeti pur cause, perché vuoi far sentire che quella parola, odore, è insostituibile. Tutta questa poesia gira intorno al problema dell'odore. Quindi l'odore lo muove verso, nella sua immaginazione, verso climi affascinanti. Guardate questo splendido aggettivo banale, l'aggettivo charmant. Lo conosce, se noi andiamo a chiederlo al bar, lo conosce qualunque dei gestori del bar. La ragazza grassa che sta al banco, avete presente chi è la ragazza? Se io gli chiedo che cosa vuol dire charmant, lo sa dire. Charmant è banale come il nome Smith in inglese, come Dupont in francese. Charmant è banale come Tufac. Io credo che qui non ci sia nessuno di voi che ignori il significato del verbo Tufac. Chiediamolo a una persona proverbialmente angelica come Chiara, ma anche lei lo sa. Poi magari non sa nient'altro l'inglese, no? Per cui qualunque cosa va in Inghilterra a chiedere un'indicazione, dice tu fuck, probabilmente, per chiedere una strada, qualsiasi cosa. Perché qui si usa un aggettivo così banale come charmant? Perché essendo il concetto, attenzione importantissimo, essendo il concetto molto importante, il poeta, che è un sommo, se ne frega di usare aggettivi banali. Li usa tranquillamente, anzi, più sono banali, più viene fuori la forza del concetto. Vede un porto rampli pieno, anzi non pieno, attenzione, di veli e di alberi. Rempli non vuol dire pieno, rempli vuol dire riempito. Vuol dire che poteva dire, se voleva dire, avesse voluto dire pieno, diceva pieno. Se dice rempli vuol dire che sono arrivate delle barche da fuori e lo hanno stipato, lo hanno riempito questo. Quando traducete dovete stare molto attenti, perché se voi mettete pieno si perde tutta la forza semantica che lui vuol dare al rempli. Rempli non è pieno, rempli è riempito. Quindi stipato, per esempio, come si traduce, va benissimo. E come se fossero affaticati, come se fossero affaticati, quindi li rende persona gli alberi e le vele, perché gli alberi e le vele non si affaticano, no? Sono degli oggetti, si affaticano gli esseri umani, ma non gli alberi e le vele. Ecco, ma è in una specie di ipotiposi, per così dire, vengono personalizzati questi alberi e vele, e si dà l'idea che si siano stancati per essere stati al largo e adesso sono raccolti nel porto. E intanto il profumo dei verdi tamarindi, non so se qualcuno di voi ha bevuto una volta, si dava nei bar e mi piaceva moltissimo, la bevanda tamarindo. C'è qualcuno che la conosce? Di voi? Nessuno? Lei? Ha mai chiesto al bar un tamarindo? È spettacoloso. Certo, adesso si tende a chiedere cose completamente diverse. È una bevanda rinfrescante, buonissima. Il profumo dei verdi tamarindi che circola nell'aria e mi empie il naso. Vedete come sull'olfatto si torna implacabilmente. Si mescola nella mia anima al canto dei marinai. Perché i marinai cantano? I marinai cantano perché sono soli. E quindi cantano per tenersi compagnia. Stop.